sole, sai e voce, tra serite case, passa anche qua sta città. Sai e che sta d'ore mare vola, una canzone rinta all'aria senza se fermare. Quante storie scritte in faccia ai muri, chi stevi che scure, nire, nire, non se può cagnare. Sangue, sangue, state fuori, porta danno, per la vita gente accisa per un po' che sai, una stella, sai, un cielo, non ha fatto niente, muore senza non potere. Niente, niente, sciocerinte case, passa sotto sangue, sesche, e poi se ne va. E poi gente senza cuore, senza amore, casa mischerinte, gente che non è così. Passo tempo, non si ferma niente, pare sempre sporca, sai, arraggia e chi lo sa. Suona una chitarra, suona, canta una canzone, mezzo mare, chissà cielo blu. Siente so parole amare, siente passa nei focore senza manco se fermare. Spunta luna, se fa tutto scuro, solo se ne trase rinta, chiagne, cerca e non guarda. Nata guerra, sta nascendo, che paura, cagna nei culure, de creature mezza via. Sento Napoli una volta sta morendo, sta soffrendo, chiagne e non può dormire. Esce sole tra serinte case, piccio di te che sto male, miro che ci fa dannare. Sana, si ferite aperte, sana, che sta gente niente, giuro, non ci fa soffrire. Sai, chi su solo sai, e nasce, nate giorni, vive tutte quante a navede. Napoli suona musica, non si può cagnare, sotto su cielo cantano, creature, ma malinconia. È mamma e questa città, Napoli storia femmina, sotto le mie zamar, siete che ti accarezzano, so è mamma e questa città. She does.